Abbiamo al telefono Alessandra Frabetti, ci senti? Sì, perfettamente. Ciao Alessandra, sì, ben trovata. So che ti trovi per strada, e, sì, però sì. Arrivando a Roma, ecco, sto venendo a Roma per lo spettacolo. Benissimo, lo spettacolo che infatti qua adesso presentiamo, col tuo aiuto ovviamente, Parabole fra i San Pietrini, il numero 10, lo spettacolo si intitola La rivincita del calzino spaiato, pensieri di una mamma postmoderna. Sì. Allora, intanto sappiamo di questo spettacolo che nasce da un blog. Infatti, l'autrice, che è Francesca Sanzo, è in realtà una blogger, una mamma blogger, che, come spiega nell'introduzione che viene recitata, qualche volta quando può ci accompagna, altre volte ci pensiamo o io o l'attrice protagonista. E questo testo è in realtà costituito da blog postati da post messi in questo blog, che si chiama Panzallaria, www.panzallaria.it. Ora, mi è stata affidata la regia e abbiamo veramente concertato in tre, l'autrice, io e l'attrice, che è Anita Giovannini, uno spettacolo divertente, questo sicuramente, ma che in qualche modo vuole anche fare riflettere proprio su questa condizione nella età contemporanea, nella vita contemporanea, soprattutto in Italia adesso, di queste mamme. Peraltro io ho ho memoria ancora molto vivida di questa condizione, cioè della mamma precaria, della mamma che deve coniugare la maternità con il lavoro. In realtà poi si pone anche l'accento su fatti anche più seri, come per esempio i condizionamenti del marketing, il condizionamento del consumismo rispetto alla gestione della maternità, che è molto pesante, e anche di questo io ho memoria. E poi purtroppo si allude in una scena in particolare anche alle estreme conseguenze di questo senso di inadeguatezza così forte che certi comportamenti legati al consumismo implicano, insomma. È abbastanza curioso trasformare, insomma, il blog, metterlo in uno spazio teatrale, insomma, adattarlo. È stato difficile, come avete... Sì, lo ammetto, è stato difficile, certo, perché in realtà appunto sono pensieri che non hanno un plot, e va bene, e abbiamo lavorato anche sul piano della costruzione delle scene con il principio del montaggio, quindi senza seguire una trama particolare, però è stato difficile compattarlo in una drammaturgia, in una scrittura di scena. Questo lo devo ammettere, anche perché questi post sono pensieri molto molto rapidi, così degli appunti rapidi, come ho scoperto devono essere i blog, e quindi fornire e dotare questo testo di un'organicità, insomma, ha comportato, ripeto, un lavoro che in qualche modo è stato poi concertato, approvato dall'autrice, insomma, è stato veramente un lavoro di cooperazione, insomma. Però ammetto che non è stato facile, cioè una trascrizione abbastanza complessa. Eh sì, bene, allora ci ha incuriosito, insomma. Ricordiamo che lo spettacolo va in scena giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 al Forte Fanfulla qui a Roma dalle 21:30, poi daremo, insomma, l'indirizzo preciso. Che dire, appunto, esperienze tragicomiche di una mamma alle prese con... Certo che, nonostante appunto questo discorso un po' serioso che ho fatto con te, devo insistere, pigiare il pedale sull'accento che lo spettacolo è, nonostante queste premesse, molto molto divertente, e l'autrice tutto sommato poi lancia un messaggio anche di ottimismo, rispetto a questo fatto. Insomma, in qualche modo è possibile superare queste difficoltà. Ecco, questo è un pochettino il messaggio dello spettacolo ed è, devo dire, molto molto divertente. Chi l'ha visto è tornato molte volte e veramente si può ridere dal primo all'ultimo momento, tranne forse in una scena, ecco, quella che fa riflettere di più, ma per il resto è veramente molto divertente. Bene, non manca praticamente nulla questo spettacolo e grazie Alessandra di esserti fermata per allora, noi per raccontarlo. Allora, vi aspettiamo numerosi. A presto. A presto, arrivederci a tutti. Ciao Alessandra, ciao.